l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, il nostro appuntamento settimanale con il programma in collaborazione con la rete Euronet Plus, il network di tante radio europee per raccontare un percorso comune. Ve lo ricordo sempre, l'attualità politica ed economica viene narrata giorno per giorno da Radio 24 e da Euronet Plus. Noi il sabato cerchiamo anche altre storie, altri punti di vista, che è un po' l'Europa delle possibilità, delle opportunità, delle storie, delle persone. Come sempre le coordinate per seguirci anche virtualmente: chiocciola Euronet Plus R24, oppure il mio account personale chiocciola Federico Taddia. Lì potete trovarci su Facebook e su Twitter e trovare tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, link che tentiamo di aggiornare minuto per minuto. Ogni settimana un viaggio. Oggi partiamo dall'Europa raccontata da uno studente Erasmus attraverso la sua Napoli. Nápoles, ciudad eterna, la ciudad partenopea. A los pies del Vesubio despierta un caos armónico que custodia siglos de historia. Calles que funcionan como una auténtica máquina del tiempo, llenas de contrastes y que hablan por sí solas. Ciudad con mil identidades. Napoli è stata sua per 9 mesi. Lui si chiama Xavi Bosca, 22 anni, viene da Minorca, uno studente di scienze delle comunicazioni che a Napoli appunto ha trascorso l'Erasmus presso l'università Suor Orsola, ben in casa, e ha realizzato come tesi nel giornalismo questo documentario intitolato I quartieri spagnoli dietro i pregiudizi, documentario disponibile su YouTube, trovate i link sulle nostre pagine Facebook e su Twitter. E Xavi Bosca è qua con noi, ciao Xavi. Ciao, buongiorno, un piacere essere con voi. Grazie davvero. Allora, la tua esperienza di Erasmus l'hai riassunta in questo documentario. Come mai hai scelto di raccontare i quartieri spagnoli? Allora, io ho vissuto da settembre, tutto il corso da settembre a giugno, ai quartieri spagnoli, e ho potuto scoprire un'altra realtà, non da quella che si dice. E ho visto che aveva l'opportunità di fare la tesi di laurea in documentario, e questo documentario volevo riflettere il mio Erasmus, quindi ho deciso di fare un documentario sui quartieri spagnoli e, perché no, buttare giù tutti i pregiudizi che ci sono, che purtroppo ci sono tanti pregiudizi, alla stessa Napoli anche, che non sono tutti vero. Quindi volevo apportare qualcosa ai quartieri che mi hanno accolto, no? Certo, ma tu conoscevi già i quartieri spagnoli quando sei arrivato a Napoli? Conoscevi già questi pregiudizi? Io conoscevo i quartieri spagnoli non come quartieri spagnoli, sino come quelli piccolini con le bandiere su, che mi dicevano di andare, di fare attenzione, e poi non mi sono accorto che finalmente ho vissuto i quartieri spagnoli, no? Due settimane poi di entrare ai quartieri spagnoli ho visto che quelli piccolini erano quelli piccolini di cui mi parlavano. Certo. E mi ho chiesto, ma cosa hanno di brutto questi quartieri? Sì, la vita qua è fratellanza, siamo tutti insieme, il buongiorno ogni mattina ti dà un'energia impressionante. Ecco, e quali sono stati i pregiudizi che hai cercato di smontare con il tuo racconto, con la tua inchiesta? Per esempio dire che hai là i quartieri spagnoli che ti rubano, che ci sta della delinquenza, dei traffici di droga. Non lo so, magari ci sta una piccola parte di questo, no? Ma ogni giorno, il giorno a giorno, non ci vede. Io non ho visto ogni giorno quelle cose che mi dicevano prima. A me non mi è successo niente ai quartieri spagnoli, magari sì mi è successo al centro di Napoli, ma ai quartieri spagnoli niente, niente. Ti ha cambiato la vita questo Erasmus? Sì, mi ha cambiato la vita nel senso di vedere che noi non possiamo conoscere nessuno quartiere, nessuna città, nessun popolo attraverso i pregiudizi, perché i pregiudizi sono soltanto delle cose che si dicono da lontano, non da dentro. Ascolta, e invece hai trovato tracce di Europa nei quartieri spagnoli, nella tua Napoli? Quanto è lontana l'Europa dalla quotidianità che hai vissuto durante il tuo Erasmus? Quanto è lontana la quotidianità che ho visto dall'Europa? Non so come dirlo. Ho visto che ai quartieri spagnoli sono una traccia, no? Una piccola parte anche degli spagnoli, ci sta quella storia, no? Non so, è una domanda così complicata, ma vedo che non so, i quartieri spagnoli hanno anche la sua parte di storicità, no? Di storicità napoletana, anche spagnola, perché Napoli infatti è stata anche spagnola. Certo, ma... ecco, quindi hai trovato comunque assonanze con il tuo vivere. Tornerai a Napoli? Tornerò proprio, chiaro e certo, perché ho conosciuto tantissima gente là, la gente dell'università, la gente della strada di Napoli, i vicini, la gente del palazzo abitava, quindi sì, tornerò proprio. E Chavi, so che hai lavorato anche alla radio universitaria, vero? Certo, Ran Radio, certo. Credo sia stata una bella esperienza anche questa, per comunque contaminarti con la cultura italiana. Sì, grande, una grande famiglia è la radio di Ran Radio, quindi raccomando a tutti anche di ascoltarla. I quartieri spagnoli dietro i pregiudizi, trovate il documentario su YouTube, ai nostri link e sui miei account personali di Twitter e Facebook. Ciao Chavi, complimenti, buona estate. Grazie, grazie mille, grazie a voi. Ciao, adesso un Europost-it, il traffico poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Mostra Illustratori Estoni. Siete appassionati di illustrazioni per l'infanzia? Sapevate che l'Estonia è famosa anche per l'abilità dei suoi disegnatori per ragazzi? Dal 17 al 26 luglio, presso Casa Barnekov, ad Anagni, in provincia di Frosinone, sarà possibile visitare la mostra C'era una volta, organizzata nell'ambito del Festival del Teatro Medievale Rinascimentale, diretto da Arnaldo Colasanti. L'idea di realizzare la mostra C'era una volta, che contiene le opere di 20 illustratori estoni, è nata anche dal fatto che tante famose favole dei fratelli Grimm hanno le loro radici proprio in Italia, con le storie scritte da Giambattista Basile. Potrete trovare tutte le informazioni sul festival e gli orari di apertura della mostra sulla pagina Facebook dell'Associazione Italia Estonia, facebook.com/italia.estonia. L'altra Europa. It's a god awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on. Questa che è stata un po' la settimana di Plutone, l'Europa invece ha guardato anche e di nuovo verso Marte. È stato infatti presentato questo importante progetto, un progetto finanziato dalla Comunità Europea per oltre 2 milioni di euro, si chiama Upwards, un consorzio che vede 7 realtà coinvolte. Per capire di cosa si tratta c'è con noi Giancarlo Bellucci dello IAPS, che è l'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali, coordinatore dell'attività INAF di Upwards. Buongiorno Bellucci. Sì, buongiorno. Cosa succede? Come mai questa nuova attenzione verso Marte? È il momento di capire appunto tutti i dati raccolti in questi anni cosa significano? Sì, esatto. L'Unione Europea ha messo in piedi questo programma chiamato Horizon 2020, con il quale vuole finanziare e promuovere l'eccellenza scientifica in Europa. E noi abbiamo costituito questo consorzio Upwards, che è un progetto internazionale per i coinvolti, appunto, come ha già detto lei, 7 istituti di ricerca europei, tra i quali l'Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma, a cui appartengo. E lo scopo di Upwards è quello di fornire una comprensione globale di Marte, che va dal sottosuolo fino all'alta atmosfera, mettendo in comunicazione tra loro vari scienziati che si occupano delle varie tematiche che riguardano il pianeta rosso. Uh-huh. E ci sono varie domande a cui vogliamo dare delle risposte, e in particolare svilupperemo nuovi modelli geofisici ed atmosferici che ci aiuteranno a capire ad esempio il ciclo dell'acqua su Marte, l'origine di gas ancora enigmatici come il metano, che è stato rilevato dalla sonda Opportunity attualmente presente su Marte. Certo. E la variabilità per esempio delle tempeste di polvere marziane. Quindi tutti questi dati raccolti in questi anni vengono analizzati, ma qual è il valore aggiunto del progetto? Perché questo consorzio? Nel senso che finora è stato fatto un lavoro frammentario, quindi ora invece si tenta, esatto, di avere una direzione comune? Esatto, esatto. Marte è il pianeta del sistema solare più studiato, quindi abbiamo a disposizione una quantità enorme di dati, ma provenienti da varie missioni europee, missioni americane, missioni russe. Quello che vogliamo fare è mettere insieme vari scienziati europei con diverse esperienze, diverso know-how, che possano insieme appunto tirar fuori da questi dati che sono lì a disposizione della comunità nuove informazioni per portare avanti la conoscenza del pianeta rosso. Mm-hmm. 2 milioni di euro sembrano tanti, sono abbastanza, e vuol dire anche, immagino, tanti giovani ricercatori impiegati nei prossimi mesi, nei prossimi anni in questa attività. Esatto, esatto. Noi come istituto italiano riceveremo una parte di questi fondi, circa 400.000 euro, con i quali nei 3 anni assumeremo 3 persone, 3 giovani ricercatori che si occuperanno dello studio dell'atmosfera di Marte. www.iaps.inaf.it, il sito per conoscere le attività dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale e ovviamente anche tutto ciò che riguarda Upwards. Grazie davvero Bellucci, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a voi, buongiorno. Europost-it. Bando assistenti all'infanzia, Commissione Europea. Avviso a tutti i puericultori e agli insegnanti di asilo nido in cerca di esperienze internazionali. La Commissione europea ha indetto 2 concorsi per reclutare 130 assistenti all'infanzia per gli asili nido dell'Unione europea. Il personale assunto dovrà occuparsi di bambini di età compresa tra gli 0 e i 3 anni, in conformità con il programma educativo. Oltre a detenere i titoli di studio necessari specificati sul bando, i candidati dovranno anche essere cittadini europei, avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione e avere una conoscenza di livello B2 di un'altra lingua scelta tra francese, inglese o tedesco. La sede di lavoro sarà Bruxelles e la retribuzione sarà di circa 1.930 euro al mese. Cercate il bando dal titolo Personale educativo sul sito di EPSO, europa.eu/EPSO. Le candidature dovranno essere inviate entro le ore 12 del 23 luglio 2015. E con il Festival di Chuck Berry continuiamo a raccontare l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità, l'Europa che poi ha le ricadute nel territorio, e ci piace raccontare l'Europa quando è presente, soprattutto dal punto di vista culturale. Si apre oggi a San Sepolcro, siamo in provincia di Arezzo, la 13ª edizione del Kilowatt Festival, l'energia della scena contemporanea, questo è il sottotitolo, fino al 25 luglio, tanta arte, tanta cultura, tanti spettacoli di varie discipline e anche tanta Europa. Di questo ne parliamo con il direttore artistico del Kilowatt Festival, Luca Ricci. Ciao Luca, buon sabato. Buongiorno a te Federico e ai tuoi ascoltatori. Allora, Kilowatt è questo grande palco, di fatto una città in scena dove si vede il presente e il futuro di quella che è un po' il movimento artistico, soprattutto emergente. E l'Europa c'è con varie iniziative di cui voi siete stati ideatori e promotori in maniera anche molto intelligente. Cosa vi siete inventati? Guarda, il nostro progetto si chiama Be Spectactive, che tradotto in italiano si potrebbe dire sì, uno spettatore attivo, se non fosse che è particolarmente brutta la traduzione. E il senso è quello di sviluppare un progetto che coinvolge 9 paesi dell'Unione, che lavorano contemporaneamente con altrettante istituzioni culturali, anzi in realtà le istituzioni sono 12, perché in alcuni paesi ce ne sono più di uno, appunto dicevo, lavorano contemporaneamente a indagare il concetto di spettatore attivo. Il nostro festival ha un cuore che nasce appunto fin dalle sue prime edizioni, di far scegliere un pezzo della programmazione a un gruppo di cittadini del territorio, di questo territorio in Toscana, al confine con l'Umbria, le Marche e la Romagna. Ci sono una trentina di persone che durante tutto l'inverno si incontrano ogni settimana, vedono dei materiali video, discutono fra di loro e scelgono un pezzo del programma del festival, con un esempio di vera e propria cittadinanza attiva che è nato come un espediente ma è diventato un vero progetto di politica culturale, se vuoi, perché certo, rimette lo spettatore al centro dei processi di pensiero, no? Anche legati alla programmazione di spettacoli. E quindi l'idea è di estendere sul piano europeo questo concetto dello spettatore attivo, collaborando con altri teatri, festival e istituzioni che già lo portano avanti o con altre istituzioni che hanno voglia di avviare dei gruppi di lavoro, noi li chiamiamo i visionari, simili anche nei loro paesi. Luca, ma al di là dei fondi che arrivano e sono fondamentali e importanti, questa contaminazione poi con paesi, con realtà simili alle vostre, ma appunto di nazioni diverse, cosa porta? La crescita è una crescita reale anche alla qualità del festival? Guarda, io ho questa sensazione mentre cominciamo a lavorare intorno a questo progetto che si è avviato a dicembre scorso, a dicembre 2014, e durerà per 4 anni, perché questo progetto è finanziato all'interno di Creative Europe, il nuovo progetto culturale che dura 7 anni dell'Unione Europea, e quindi io ho questa sensazione che proprio si tratta, nel piccolo, senza alcuna presunzione, ci mancherebbe, ma proprio di fare l'Europa, nella misura in cui noi costantemente ogni giorno al telegiornale sentiamo dire ma un'Europa solo monetaria, un'Europa fatta solo dai burocrati e via dicendo. La sensazione è che questi programmi cultura, non solo questi evidentemente, ma anche questo, se ci pensi, proprio perché è pensato nell'idea che l'Unione Europea non finanzia un singolo festival o una singola istituzione, ma finanzia il fatto che più istituzioni lavorino assieme, ed è questo il valore aggiunto. Quindi lavorando intorno a questo si ha veramente la sensazione di, come dire, conoscersi nelle nostre differenze, trovare i denominatori comuni, ed è un processo davvero esaltante, anche critico, perché non tutti i passaggi sono facili, cioè vedi proprio che in alcuni paesi c'è un tipo di mentalità, soprattutto in un progetto come questo, no? Che chiede di allargare, di fidarsi degli spettatori, cioè in alcuni casi c'è un tipo di mentalità anche come dire più chiusa, più verticistica. Quindi insomma è un'esperienza complessa, estremamente esaltante, la sensazione proprio di dare il nostro piccolo sassolino per costruire l'Europa, insomma. Kilowattfestival.it è il sito di riferimento per conoscere tutto il programma. Tra l'altro qui faccio anche un po' di autopromozione, questa sera anch'io sarò sul palco, ho la fortuna di essere lì con Telmo Pievani e la banda Osiris per raccontare il nostro finimondo. Luca, tre cose scelte al volo che secondo te è meglio, un sunto per rappresentare e raccontare quello che succederà in questi giorni. Velocissimamente, allora, lunedì sera il debutto di Iaia Forte con un nuovo lavoro, con un testo di Paolo Sorrentino, regista premio Oscar della Grande Bellezza, e poi gli ultimi 3 giorni, 23, 24, 25, i 9 spettacoli scelti dai visionari di cui abbiamo parlato, e poi 2 debutti di 2 maestri della coreografia italiana, Enzo Cosimi, sempre lunedì sera, e martedì sera Michele Abbondanza. Questo è Kilowatt, grazie a Luca Ricci, ciao e buon lavoro. Ciao, grazie a te e ai tuoi ascoltatori. Un Europosit, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europosit. Tirocini JRC. Sei un neolaureato in comunicazione, linguaggi dei media, scienze politiche o simili e hai una buona conoscenza dell'inglese? Sei appassionato di comunicazione digitale e social media? Il Centro Comune di Ricerca, Joint Research Center della Commissione Europea, offre posizioni di stage retribuiti per giovani laureati. Il centro si occupa di fornire un sostegno scientifico e tecnico alla progettazione, allo sviluppo, all'attuazione e al controllo delle politiche dell'Unione Europea. Svolge inoltre un ruolo di coordinamento e ricerca presso numerosi enti nazionali, università e industrie degli Stati membri, oltre ad occuparsi di ricerche indipendenti e collaborare con reti extraeuropee e mondiali nel campo scientifico e normativo. I tirocinanti avranno il compito di collaborare ad un progetto che prevede di creare, implementare e gestire una nuova piattaforma di social network di proprietà del Joint Research Center. Per saperne di più, visita la sezione tirocini del sito ec.europa.eu/jr. L'altra Europa. Sage, hey, dweller, successful fella, thought to himself, oops, I've got a lot of money. Caught in a rat race, terminally. I'm a professional cynic, but my heart's not in it. I'm paying the price of living life at the limit. Caught up in a century's anxiety. Yes, it plays on him. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità che cerchiamo di raccontare ogni settimana. Vi ricordo che potete seguirci anche virtualmente, Euronet Plus R24 oppure il mio account personale, Federico Taddia, su Twitter, su Facebook, sul nostro sito Radio 24, nelle pagine dell'altra Europa con tanti contributi extra e la possibilità di riascoltare la puntata e tutte le dritte che vi diamo, in particolare anche gli Euro Post-it. Con questa musica, con questa country house, vi entriamo in un progetto che si sta concludendo in queste ore. Siamo a Modica, dove si tiene il primo ciclo dei percorsi di formazione di questo progetto finanziato nell'ambito di Erasmus Plus, imprenditorialità agricola sostenibile per giovani lavoratori in Africa e in Europa. Si chiama Agro, giovani imprenditori di Ghana, Camerun, Grecia e Italia. Capofila di tutto questo è lo Svimed, Centro Euro Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile. Diamo il benvenuto a Emilia Arabito. Ciao Emilia. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, si conclude oggi giornate intense di lavoro e formazione. Com'è andata intanto? Sì, è andata bene. Siamo contenti che tutti i partecipanti hanno avuto il visto intanto per venire in Italia, perché per ora non è molto semplice. Uh-huh. Abbiamo avuto visite on the desk, formazione non formale, visite studio anche in alcune aziende agricole della zona del Modicano, del Ragusano, a Chiaramonte. Certo. Ma Emilia, ti faccio una domanda apparentemente, sì, anche banale, che però magari è nata anche nella testa dei nostri ascoltatori. Sì. Ghana, Camerun, Grecia e Italia, qual è, sì, il filo conduttore? Allora, il filo conduttore del progetto è l'agricoltura sostenibile, il fatto di poter dare l'opportunità a dei giovani che vogliono lavorare in agricoltura, vogliono appunto fare anche dei business plan con diverse specialità. Che adesso stiamo facendo il corso in Sicilia e quindi, sì, parleremo più delle specie dei prodotti siciliani. Certo. Ma quando andremo in Camerun e Ghana parleremo dei loro prodotti, quindi il percorso si concluderà il prossimo anno, in verità. Mm-hmm. Questa prima parte finisce qui. Certo, quindi insomma, per imparare sia per tecniche di lavoro concrete, sì, della terra, sia anche la sì, gestione di la gestione, piccole e nuove imprese. Esatto. E collegata con noi c'è anche Teodora Acribula Fezzi, detta Dora, spero di aver pronunciato bene il cognome, ma non credo, e giovane greca che sta partecipando all'incontro, alla formazione. Ciao Dora. Ciao, buongiorno. L'ho pronunciato bene il tuo cognome? No, Sì, sì, cioè, no. Dora, tu di dove sei? Sono dalla Grecia. Di dove in particolare? Ad Atene. Di Atene. Di Atene. Okay. Di Atene. E tu di cosa ti occupi? Già lavori in campo agricolo? Io sono un'agronoma, lavoro in un'azienda di ispezione e certificazione dei prodotti biologici. Perfetto. E come mai hai scelto di partecipare a questo progetto? Non so, era interessante per me perché lavoro in questo settore, e anche cultura sostenibile è molto necessaria in questi tempi, al rispetto, rispetto all'ambiente è molto importante, per imparare che cosa succede anche in altri paesi, anche in Africa. Certo, stiamo seguendo quello che succede in Grecia in questi giorni, in queste settimane, ma mi viene da dire anche in questi mesi, in questi anni. Quella dell'agricoltura biologica è un campo che offre prospettive? Forse non è troppo sviluppato come qua in Italia, perché ci sono tanti problemi in questo settore, come in tutti i settori in Grecia adesso. Certo. Sì, vediamo come va. Ok, ma la tua idea sarebbe quella di acquisire più competenze per quello che già stai facendo o vorresti aprire una tua impresa? No, non penso adesso questo. Per me è un grande occasione perché cambiamo idee per quello che succede nei nostri paesi e c'è cooperazione con i paesi africani che non... è un'opportunità che c'è spesso. Certo, grazie Dora, in bocca al lupo per la tua attività. Emilia, credo che le parole di Dora abbiano riassunto tanti degli ingredienti e tanti degli obiettivi che vi ponete con questo progetto, quindi contaminazione, confronto, incontro, stimolarsi anche a vicenda. Esatto, voglio solo aggiungere, ecco, l'obiettivo finale è quello di dare delle competenze che ovviamente non si imparano a scuola, quindi competenze un po' diverse, più pratiche e che poi servano loro appunto per trovare un lavoro in futuro, quindi l'obiettivo finale e poi il risultato dovrebbe essere quello. Ci sarà anche un corso online per chi non ha avuto la possibilità di partecipare ai vari corsi che faremo, quindi magari chi volesse può partecipare online e vedere tutto quello che abbiamo fatto durante le attività. Come sito di riferimento darei quello della vostra organizzazione www.svimed.eu oppure dimmi. Perfetto, oppure la pagina Facebook del progetto che in questi giorni l'abbiamo attivata, Agro. Basta digitare Agro, si può arrivare alla pagina Facebook. Grazie, complimenti, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao Emilia, ciao. Buona giornata. Europost-it. Bandi Europa Creativa. Nell'ambito di Europa Creativa, il programma quadro dedicato al settore culturale e creativo per il periodo 2014-2020, sono stati recentemente pubblicati 3 bandi di gara per la realizzazione di studi e progetti pilota dedicati a enti e operatori del campo artistico e culturale. Nello specifico, le call aperte riguardano 3 argomenti. La prima richiede uno studio sull'ampliamento del pubblico in modo da comprendere come si possa porre il pubblico al centro delle organizzazioni culturali. La seconda prevede l'elaborazione di un progetto pilota sul crowdfunding per i settori culturali e creativi al fine di rilanciare l'economia culturale. Mentre la terza call richiede l'ideazione di uno studio aggiornato sull'economia della cultura. Tutti e 3 i bandi scadono tra agosto e settembre 2015. Per avere più informazioni potete consultarli sul sito ec.europa.eu/programs/creative-europe. I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds. Dopo 3 anni di lavoro, un consorzio guidato da BirdLife International e finanziato dalla Commissione Europea ha pubblicato la nuova lista rossa europea degli uccelli, la prima finora realizzata che si va ad affiancare a quella mondiale, è stata presentata da pochi giorni, quindi andiamo a leggere questa fotografia. Lo facciamo con Marco Gustin, responsabile specie e ricerca della LIPU. Ciao Marco, benvenuto all'Altra Europa, buon sabato. Ciao a tutti. Allora, lista rossa europea degli uccelli, di cosa si tratta? Ma praticamente è la lista, la prima lista europea rispetto a quella che è stata anche già realizzata per gli uccelli nel mondo, delle 10.000 specie di uccelli che vivono nel mondo, è stata realizzata quest'anno una lista rossa europea che ha preso in considerazione quasi 500 specie, che sono poi le principali specie che vivono nel continente europeo. Ma è rossa perché è un allarme? Rossa, sì, perché lista rossa significa che diciamo è una lista che comprende le specie che rischiano l'estinzione. Diciamo viene fatto tutta una serie di analisi con dei metodi particolari che portano a dare delle categorie di rischio di estinzione delle singole specie. Perfetto. E leggevo qualche numero, il 18% delle specie di uccelli in Europa, quindi 67 specie su 451 sono quelle a rischio, quindi una su 5 è minacciata di estinzione? Sì, praticamente una su 5 è minacciata di estinzione nei paesi della comunità europea. Sì. Mentre invece questa percentuale cala appena se si considera, diciamo, l'intera Europa, quindi comprendente anche i paesi che non sono all'interno della comunità europea. Ok. Sono numeri significativi? Sono numeri che vi aspettavate? Sono numeri preoccupanti? Sì, sono numeri in linea con quello che poi succede a livello mondiale, perché anche la lista rossa degli uccelli del mondo arriva a un 12-13% di specie minacciate complessivamente, quindi è più o meno la stessa percentuale, chiaramente con un numero di specie diverse perché lì si analizzano tutte le specie del mondo rispetto a quelle europee. Quindi cambiando, diciamo, la lista mondiale rispetto a una europea, il risultato alla fin fine non cambia, cioè che nel caso di quella mondiale sono più di 1.000 le specie che rischiano di estinzione, nel caso europeo sono appunto questa sessantina circa. Certo. Marco, al di là dei numeri e delle percentuali, puoi farci anche qualche nome di specie a rischio? Cioè ci sono uccelli che vediamo e che conosciamo e che veramente rischiamo di non incontrare più? Ma diciamo ci sono alcune specie che nessuno conosce, tipo la berta balearica, cioè una berta che è stata recentemente classificata come specie da non moltissimi anni e che vive soltanto alle Baleari. Okay. Oppure la beccaccia di mare, che invece è un limicolo che vive anche in Italia, soprattutto lungo le coste, in particolare quelle adriatiche dell'Emilia Romagna, del Veneto e del Friuli Venezia Giulia. O specie anch'esse nordiche che da noi non ci sono, tipo la gazza marina, che è un uccello che frequenta moltissimo gli oceani e poi si porta lungo la costa per riprodursi. Certo. O specie legate a delle zone, diciamo, di prateria come la pernice bianca nordica, o specie acquatiche come il moriglione, che è un'anatra tuffatrice che appunto ha subito negli ultimi anni un vero e proprio collasso numerico, soprattutto nei paesi del nord Europa. Marco, ci fermiamo un attimo, il traffico, poi torno da te che ci racconti della petizione, appunto delle firme che state raccogliendo ancora per qualche giorno. L'altra Europa. Eccoci qua ancora con l'Altra Europa, con noi Marco Gustine, responsabile specie e ricerca LIPU. Abbiamo raccontato appunto l'origine di questa lista rossa, però Marco, c'è un appuntamento importante, visto che parliamo di Europa, è proprio l'Europa che vi rivolgete, lipu.it/allarmenatura è il sito online dove poter aderire e firmare per queste petizioni. Cosa state chiedendo? Stiamo chiedendo che le due direttive europee per la conservazione sostanzialmente della natura, che sono la direttiva Habitat del 92 e la direttiva Uccelli del 79, siano mantenute tali, perché c'è il rischio che con questo sorta di controllo che la Commissione europea sta facendo tramite la cosiddetta fitness check, che è un processo che la Commissione sta effettuando per valutare l'effettiva efficacia delle due direttive, non sia diciamo smantellata da parte della Commissione europea. Quindi quello che chiediamo è una enorme quantità di firme, ad oggi siamo arrivati a quasi 400.000, per salvare il più possibile e convincere la Commissione europea della bontà di queste direttive internazionali. L'obiettivo è 500.000 firme, insomma c'è ancora, ci sono ancora 4-5 giorni, però tutta l'Europa coinvolta. Diciamo fino al 24 luglio, c'è la possibilità di firmare. lipo.it/allarme natura. Grazie davvero Marco, ciao, buon lavoro. Anche a voi, arrivederci. Ciao, ciao, ciao. Співай, немає хати, ходи гуляй, п'яний, холодний, але свободний, душа по смерті попаде в рай. E chiudiamo con questa contaminazione sonora, è una band ucraina che fa musica balcanica e con queste note accogliamo qua in studio il collega del secolo XIX Marco Grasso. Ciao Marco. Ciao, buongiorno. Giornalista, tu ti occupi di inchieste, sei qui perché autore insieme a Davide Pambianchi di un... non è solo un reportage, non è solo un documentario, è un lavoro molto più complesso, si intitola Lost in Revolution. Di cosa si tratta? Allora, noi siamo partiti con un pullman di badanti ucraine quando in un momento molto particolare dell'Ucraina, ovvero in un passaggio di transizione molto delicato tra la fine della rivoluzione di Maidan e l'inizio di quella che poi è diventata una guerra civile. L'idea era quella di guardare dove non si vede più, cioè nelle periferie. In ogni periferia delle città, di ogni città italiana, ogni domenica c'è una partenza verso l'Ucraina. È una realtà spesso che ci passa sotto gli occhi e noi non vediamo, ma la comunità ucraina è composta da 250.000 persone, ovvero la comunità più numerosa di tutta Europa. Con questa idea noi, insomma, abbiamo pensato di vedere dove andavano le nostre badanti e come vivevano questo momento così particolare del loro paese. Quindi avete viaggiato con loro, avete raccontato le loro storie, le avete filmate, le avete fotografate, le avete narrate. E che pezzo di storia è uscito? Che pezzo d'Europa anche è uscito? Beh, è uscito un pezzo d'Europa che sembra davvero più lontano di quanto in realtà non sia, ovvero arrivare a Kiev con questi pullman ci si impiega 48 ore, quindi sembra una veramente una maratona epocale. In realtà in linea d'aria è, diciamo che è più vicino di Palermo, che è più vicino dell'estremo nord d'Italia con l'estremo sud. Abbiamo trovato un paese in grande difficoltà e con una forte crisi di identità, di cui è venuta l'idea del nostro titolo Lost in Revolution, perché noi abbiamo trovato un paese che aveva perduto una rivoluzione, si stava perdendo nella rivoluzione e diciamo il sentimento positivo era già in modo percettibile, si era trasformato in qualcosa di negativo, quasi in una volontà di morte, che è quella poi che ha portato tutto il paese nella guerra. E rivoluzioni perdute anche a livello personale, perché spesso queste donne partono con l'idea di risollevare un po' la propria famiglia, ma spesso insomma questo tentativo non finisce mai, quindi si perdono un po' per strada e spesso perdono anche le loro famiglie. Che emozioni hanno nella valigia quando tornano? C'è rassegnazione, c'è tristezza, c'è gioia, c'è felicità, c'è infelicità? C'è sicuramente un forte attaccamento, nel senso che come comunità rispetto ad altre sono molto attaccate alla loro terra d'origine. C'è una grandissima tristezza, c'è una frase che non... una delle frasi che mi ha più colpito di quelle che abbiamo raccolto è una di queste badanti che fa la badante, ma in realtà è un ingegnere civile, che dice a noi dispiace perché il nostro è un paese così colto, ma la nostra cultura lì non serve a nessuno. E insomma, quindi dice tanto. E Lost in Revolution, anche la formula che avete utilizzato per raccontarlo, no, mi dicevi non solo un documentario, non solo un video, ma anche altro. Sì, l'idea a livello più ampio era quella di che oggi viene chiamata storytelling, quindi unire tanti linguaggi. Poi io sono un giornalista di carta stampata e il mio compagno di avventura, diciamo, è più un fotoreporter, anche se poi ci siamo scambiati rispettivamente la penna, le macchine. E l'idea era quella di fare un qualcosa che rispondesse un po' a un bisogno che da tempo si avverte nei media, nei nuovi media, quindi creare qualcosa che stesse su più piattaforme, quindi che raccontasse attraverso le immagini, raccontasse attraverso un video e raccontasse attraverso la parola scritta, ma anche che riuscisse a mettere tutto questo insieme in una formula nuova sul web. Ma le avete seguite fino a Kiev e anche al ritorno o solo il viaggio? Noi abbiamo fatto il viaggio di andata con loro. Uh-huh. E una volta là siamo diventati una sorta di embedded di queste milizie ultranazionaliste che in quel momento, stiamo parlando della vigilia delle elezioni che hanno portato al potere Poroshenko, avevano preso sostanzialmente il potere della città e quindi occupavano dei palazzi pubblici in un paese che sostanzialmente non aveva più autorità, più polizia. Quindi diciamo è diviso in due parti questo lavoro, prima diciamo il viaggio con le badanti, poi il viaggio con gli ultranazionalisti. Insomma, quindi è un primo tempo e un secondo tempo anche molto diversi tra loro. Dove si può vedere il documentario? Allora, questo documentario si potrà vedere in diversi film festival direi che tra qualche mese, quando avremo finito questo tour de force di varie insomma presentazioni, lo metteremo anche a disposizione in chiaro sul nostro sito lostinrevolution.net. Un'ultima domanda, Marco, hai visto voglia di Europa a Kiev? A Kiev c'è voglia d'Europa, soprattutto c'è voglia di pace. Purtroppo, come accade in molti paesi d'Europa, con vari effetti e varie conseguenze, questa non è l'unica voglia. C'è una parte minoritaria, ma che ha però un peso evidentemente, che ha anche voglia di guerra e spinge verso un nazionalismo molto spinto. Alle elezioni si è visto che non contano quasi nulla, però di fatto, come spesso accade, chi urla di più ha un peso specifico più alto dei voti che porta. E questa, ahimè, la nostra contemporaneità. Grazie davvero a Marco Grasso e complimenti a te e al tuo collega Davide Pambianchi per questo ottimo lavoro con il quale chiudiamo la puntata di oggi. Un grazie a voi per essere stati in nostra compagnia e un grazie a tutta la squadra, Miriam Lucchetti e Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata, Filippo Aureggi oggi alla parte tecnica. Come sempre potete ritrovarci sul nostro sito radio24.it oppure sui social, il mio account personale @FedericoTaddia su Twitter e Facebook. L'appuntamento con l'Altra Europa è a sabato prossimo, l'appuntamento con me invece è a domani alle 9 con Terra in Vista, l'Expo spiegato a mio figlio. Ciao! L'Altra Europa in collaborazione con Euronet Plus.